20 anni, funziona molto. Evidentemente chi va a teatro a quell'età sente davvero il bisogno di sentirsi dire delle robe che siano, come dire, dolcemente lucide e non ottusamente chiuse. Ho considerato il peso che hanno le fantasie, come avete immaginato la messa in scena? È un, in un interno comunque? Guarda, è un box, hai presente una cantina di cemento, sì. Una roba proprio senza tramonti, senza orizzonti in qualche modo. Gli orizzonti, ti ripeto, sono mentali. Sta nella visionarietà e nella capacità del Don Chisciotte di farti immaginare cose attraverso un video. Insomma, lui è un blogger, è un anziano blogger, quindi parla alla rete, è un cavaliere, diciamo, un Don Chisciotte della rete. E anche lì, senza stare a fare a cavalcare la cosa, no? Come dire, l'attualità della rete, che sarebbe banale anche quello. Quindi anche in questo caso si utilizza sicuramente il discorso e la forza che in questo momento, persuasivo o meno, che ha la rete, però anche lì senza pagare troppo pedaggio, usandola per i nostri fini e non facendo una roba alla moda, perché il linguaggio è un linguaggio, a mio modo di vedere, ed è tutto merito dell'autore e del regista, poi adattato, è un linguaggio eterno. Don Quixote, liberamente ispirato al Don Quixote della Mancia di Miguel de Cervantes, di Nunzio Caponio, adattamento e regia di Davide Iodice, con Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi a Roma, Teatro Golden, dal 26 novembre al 15 dicembre 2019. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandro Benvenuti. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie a voi per la vostra attenzione, sempre bello essere considerati. Ciao. Con Anna Maria Malato, presidente di Più Libri Più Liberi, Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, a Roma, alla Nuvola, dal 4 all'8 dicembre 2019. Ben trovata. Buongiorno a tutti. 18ª edizione, come sarà quest'anno? Diventiamo maggiorenni, sarà un'edizione molto importante, siamo orgogliosi dei nostri numeri che sono cresciuti ancora, avremo 670 incontri con oltre 1500 tra scrittori, autori, giornalisti che passeranno per le nostre sale, abbiamo 520 editori che espongono, quindi davvero un panorama completo della piccola e media editoria. Considerato che siamo alla 18ª edizione, cosa ha mantenuto delle sue caratteristiche iniziali e come si è trasformata la fiera? Per noi principalmente la più grande vetrina a livello internazionale della piccola e media editoria, che ricordiamolo rappresenta il 41% del mercato, ma a livello di copie, perché le nostre tirature sono naturalmente più basse di quelle della grande editoria, il 52,9%, cioè più di un libro su due che esce ogni anno in Italia è un frutto della nostra edizione. E sappiamo che però questi non sono i numeri che si trovano arrivando in libreria, quindi per noi è molto importante l'incontro con il pubblico. Quello che è cresciuto tantissimo quest'anno è anche la nostra vocazione internazionale, ci saranno 38 editori stranieri provenienti da 19 paesi che incontreranno i nostri editori, ci saranno grandi incontri con ospiti internazionali, anche perché il tema che abbiamo scelto quest'anno, un tema obbligato dall'attualità, è quello dell'Europa, non si poteva non parlare d'Europa. La scelta della Nuvola confermata e come è arrivata? La Nuvola è per noi parte ormai della nostra identità. Io credo che non ci sia un'altra fiera in Europa dove si trova un contenuto di tale qualità, ma in un contesto architettonico così bello. Peraltro è il centro congressi, è lo spazio espositivo più grande che c'è dentro Roma, quindi diciamo che è stato determinato anche da quello. Noi siamo nati al Palazzo dei Congressi, lo ricordo, abbiamo costruito un percorso insieme ad Euro S.p.A. che ci ha portato oggi ad essere totalmente riconosciuti. Cosa c'è di più bello che mettere libri tra le nuvole? Sempre più autori ed autrici si mettono alla prova in un ruolo performativo, molti di loro e molte di loro leggono e incontrano il pubblico a livello quasi teatrale. Ecco, questo fenomeno mi sembra che si stia allargando. Io credo che una delle mission di una manifestazione, ci si chiede spesso, ma servono le fiere del libro, piccole, piccolissime, medie, grandi? Io credo che sia quello di formare un senso di comunità che faccia incontrare gli scrittori, gli autori, naturalmente gli editori e tutta la filiera del libro, con la comunità dei lettori, che sono poi naturalmente appunto quello a cui noi ci rivolgiamo. Quindi ascoltare le parole di un libro, magari dalla voce del suo autore o da un autore che lo interpreta, è secondo me un momento di grande emozione che avvicina il lettore al testo. L'anno scorso c'è stato un momento particolarmente significativo quando abbiamo fatto leggere le parole di Ahmet Altan a Valerio Mastroandrea. Ahmet Altan è lo scrittore turco che è stato incarcerato per lunghi anni, poi è stato liberato recentemente, adesso drammaticamente di nuovo in carcere. Bene, quest'anno tornerà da noi la moglie Yasmina Kongra e la compagna, e nuovamente faremo leggere le sue parole, che sono veramente un grido che esce dal carcere. Com'è la situazione della lettura e dell'editoria in Italia, considerato che in Europa siamo un po' il fanalino di coda rispetto proprio alla dimensione lettura per ogni cittadino? E infatti i dati si possono leggere in vari modi. Siamo felici di dire che la piccola e media editoria fa un più 1,5%, che il mercato è in lievissima crescita, ma è anche vero che il 40% degli italiani non legge neanche un libro l'anno, neanche un libro per caso. È un dato allarmante e molto più basso di quello di tutti gli altri paesi europei. Quindi quella è veramente una sconfinata prateria da conquistare. Noi su questo facciamo anche un grandissimo lavoro rivolto alle scuole. Abbiamo ogni anno circa 20.000 tra bambini e ragazzi che ci vengono a trovare in fiera e rivolgiamo loro laboratori, reading, percorsi di lettura. Facciamo un concorso letterario che si chiama PLPL Junior, chiedendo ai bambini di scrivere un racconto sulla base delle illustrazioni che gli diamo fatte dalla nostra Emily Gabue, che ha firmato la campagna di quest'anno. Il tema di quest'anno dato ai ragazzi è l'ambiente, un tema che li vede particolarmente coinvolti, e poi al salone premiamo il racconto migliore e pubblichiamo naturalmente i primi classificati. È un percorso di scrittura e lettura che avvicina i bambini e i ragazzi, nel quale crediamo molto. Com'è il rapporto tra carta stampata e digitale? Come si sta sviluppando? Io ricordo, faccio questo mestiere, io sono un editore naturalmente prima di tutto, la casa editrice l'ha fondata mio padre, ricordo una ventina d'anni fa l'ha messa da Requiem per il libro con l'avvento dell'ebook. Tutti sanno che in realtà questo mercato è fermo, è ancora molto basso e addirittura in recessione negli Stati Uniti. L'audiobook di cui parlavamo prima in realtà invece è in crescita, perché quello secondo me è un processo non sostitutivo della lettura, un processo che si affianca alla lettura in tempi che altrimenti non potrebbero prevedere il libro, come magari la macchina, la corsa, ecco, altre, ed è comunque un modo di vedere la parola scritta anche ascoltandola, come dicevamo prima. Ma non credo che il nemico sia la tecnologia nel senso dell'ebook, il nemico è la tecnologia nel senso della connessione continua a cui i nostri ragazzi sono sottoposti, che piano piano mina la capacità di concentrazione. Il processo addirittura è un processo di approfondimento che ha dei tempi, ecco, quello è veramente il lavoro che dobbiamo fare, mantenere questa capacità noi e naturalmente sui nostri ragazzi. Quello che si nota in libreria è una capacità di lettura e di interesse da parte dei piccolissimi e degli anziani. Quello che manca spesso è tutta una parte di età molto larga. Sì, noi cerchiamo con la nostra manifestazione di dare una risposta tramite il nostro programma un po', come dire, a tutte le curiosità di lettura. Cioè noi abbiamo veramente un'offerta che prevede tutti i più grandi scrittori italiani che sono presenti, da Caro Figlio, da Sciamaraini, Sandra Pagignani, Donatella di Pietrantonio, Donatella di Cesare, Marisol Giovanni, veramente tutti. Però ci sono anche cose così più leggere, più facili da leggere. Ci sarà Francesco Totti a presentare il libro del giornalista, che è un grosso libro di barzellette, poi ci sarà Carlo Verdone con Compagni di scuola. Cioè, l'importante è avere il libro in mano, l'importante è imparare che la meraviglia che c'è dentro un libro ci porta in altri mondi. Poi secondo me il contenuto si allarga, e quindi io ho una figlia di 22 anni che è un'appassionata lettrice, naturalmente avendo visto la mamma leggere solo da quando è nata. Non importa da dove si comincia, anche dal fumetto, però poi se si impara il processo di lettura è un regalo che si tiene per tutta la vita. Nel salutarci ci lascia tutti i riferimenti internet per seguire la programmazione? Il sito www.plplpl.it c'è il nostro programma, e naturalmente c'è anche una comodissima app che si può scaricare sul cellulare, dove è molto facile orientarsi in questi tantissimi incontri. 18ª edizione di Più Libri Più Liberi, fiera nazionale della piccola e media editoria a Roma, alla Nuvola, dal 4 all'8 dicembre 2019. Un saluto e un ringraziamento alla Presidente Anna Maria Malato. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi, vi aspettiamo alla Nuvola. Con Claudio Morici per parlare del suo spettacolo Il Grande Carrello, che sarà a Roma, Teatro Biblioteca Quarticciolo, 6 e 7 dicembre 2019. Claudio, ben trovato. Ciao. Un nuovo spettacolo che ha delle particolarità, ce ne parli? Sì, è il risultato di una collaborazione tra me, performer, da 6 anni fa i suoi spettacoli che scrivo, dirigo e performo. Prima scrivevo romanzi, però adesso questo faccio, e due scrittori, in particolare due giornalisti, che invece si occupano di inchieste, e in particolare sull'alimentazione, sulla filiera alimentare. Sono Stefano Liberti e Fabio Ciconte, hanno scritto un libro per La Terza che si intitola Il Grande Carrello, e io lo metto in scena, mi hanno chiesto di farlo, di partecipare a questa cosa. Io sono stato molto contento di accettarlo, lo metto in scena, però il loro saggio è assolutamente serio e informativo, diciamo, sebbene brillante. Il mio spettacolo è comico, ho trasformato un saggio di inchiesta in uno spettacolo comico. Questa è stata la sfida o il meccanismo creativo di questa storia. Il libro parla di come la grande distribuzione organizzata, i supermercati, agisce delle strategie per cui poi noi consumatori ci troviamo a comprare in un certo modo, ad acquistare in un certo modo, perché questa grande distribuzione ci osserva come se fosse un grande fratello. Ecco. E in particolare su come ci costringe a incastrare il nostro cervello e le nostre azioni nella famosa battaglia degli sconti, e che come questi sconti ad ogni prezzo, caso di dire, distruggano poi una serie di attori della filiera, provocando dei danni seri sia alla salute che alle persone, che al lavoro, che all'industria. Oh, ora che facevi i nomi, ma Stefano Liberti è il documentarista. Esatto. Ah, beh, allora lo conosciamo bene per il suo lavoro, soprattutto l'ultimo Soialism, e quindi immagino un bel lavoro d'inchiesta il suo. Sì, cioè loro appunto hanno accettato perché erano fortissimi. Fabio Ciconte è il presidente di Terra Onlus, che è una Onlus piccola ma che fa, diciamo, una modalità di lavoro molto originale, che si occupa di caporalato, di terra, di ambiente, sono fortissimi, è una coppia di giornalisti formidabili. Ecco. E com'è scoccato questo incontro? Ma ho telefonato. Semplicemente. Liberti mi ha visto dal vivo qualche volta e loro avevano questa idea di trasformare in spettacolo il loro libro, sia per promuovere il libro ma anche per promuovere quelli che erano i contenuti in se stessi, diciamo, diventa una specie di strumento divulgativo anche lo spettacolo, sì, sugli argomenti dell'indagine. Ecco, cosa ti convinceva del loro lavoro? Liberti fa le prime pagine dell'Internazionale, capite? Cioè, è proprio bravo, cioè, io ero un suo lettore, non l'avevo mai conosciuto, forse una volta ci eravamo presentati appunto dopo uno spettacolo così, però non ci avevo mai parlato, non li conoscevo loro, però il fatto che erano bravi, poi ho letto il libro, era un argomento interessante, e poi mi piaceva pensare che potessi trasformare un saggio in uno spettacolo comico, ecco. Il meccanismo per come fare questo mi è venuto quasi subito, a loro è piaciuto, mi hanno seguito durante tutto lo sviluppo dello spettacolo, sempre in maniera molto rispettosa, così mi hanno dato consigli, anche mi hanno corretto delle informazioni, ovviamente, perché poi è ispirato al libro, diciamo, io seguo i concetti del libro, però poi invento delle dinamiche. Il libro non c'ha una struttura narrativa, cioè è abbastanza orizzontale, puoi leggere l'ultimo capitolo all'inizio, così non è che non c'è uno sviluppo, cioè è molto sottile, quindi io ho dovuto creare anche una storia, che nel libro non ci sta. Come hai pensato la trasposizione? Cosa hai escogitato? Il libro parlava continuamente di questa ricerca di marketing degli anni 80, in cui individuavano 5 tipologie di clienti, che si chiama proprio cliente cacciatore, cliente brand fan, cliente esperto, che segnalavano come una specie di identikit di questi clienti, per cui sono 5, te li vedi e ti viene subito da pensare che tipo di cliente sei, perché in realtà è un po' quasi a oroscopo, diciamo. E questo era il risultato di milioni di soldi spesi nel marketing, quindi i supermercati, in effetti, questo libro parla di questo, ci osservano continuamente, in modo dalla tessera fedeltà che ti prendi per fare gli sconti, loro capiscono come spendi, quanto, a che ora del giorno spendi e in quale mese, che tipo di prodotti compri, capito? E quanti anni, rispetto a quanti anni hai, che lavoro fai, cioè loro intrecciano una quantità di informazioni, cioè so, non esiste nessun'altra, diciamo, entità che sa così tante cose su di noi come quella. Cioè gli stessi gruppi politici non hanno modo di osservare, adesso magari con i social network, appunto, che se ne parla molto, ci riescono a tracciarci, ma ancora prima dei social network c'erano queste tessere di fedeltà dei supermercati, o anche la stessa spesa parlava dell'utente, se un prodotto vendeva di più, vendeva di meno. E quindi queste cinque tipologie di clienti lo fa diventare dei personaggi veri e propri, che parlano, che si incontrano tra di loro come se fossero all'interno del Grande Fratello, cioè il grande carrello lo metto in atto sul palco, e quindi il cliente cacciatore, rozzo, probabilmente fascia medio-bassa, che vive soltanto per gli sconti sui volantini e cambia supermercati tutte le settimane per trovare l'offerta speciale, si innamora della cliente esperta che invece senza glutine, senza olio di palma, legge i libri, si informa e non va nei supermercati con gli sconti, perché sa che gli sconti distruggono tutti, capito? Cioè questa storia d'amore impossibile, che non vi racconto qual è l'esito, però ho fatto in modo che questi personaggi astratti del marketing diventassero persone reali e che trasgredissero la funzione che gli viene data, e questo è un po' il gioco per un messaggio che ci sarà poi alla fine dello spettacolo, che è lo stesso messaggio che c'è nel saggio in qualche modo, diciamo. Mi parlavi prima dell'intervista di alcune tappe che avete già fatto in alcuni teatri nazionali. Sì, questo spettacolo ha debuttato al Festival Internazionale di Ferrara, il Festival della Rivista, che è un festival bellissimo. C'erano al debutto tipo 400-500 persone in piazza all'esterno, quindi è stato un debutto forse più bello che abbia mai fatto per uno spettacolo, o comunque forse quello con più persone, e c'era anche un pubblico attento, che era il pubblico di questo festival di giornalismo. E poi l'abbiamo fatto a Modena e l'abbiamo fatto a Trento, ecco, e adesso per la prima volta a Roma a dicembre al Teatro Pipino della Quarticciola. E mi dicevi anche che è l'ideale per festival tematici. Beh sì, infatti sì. Sì, questo, diciamo, se a differenza degli altri miei spettacoli ha un contenuto preciso, diciamo, che va oltre me in qualche modo. A differenza degli altri spettacoli, più che uno spettacolo da andare a vedere a teatro per vedere che succede nella mia capoccia, è uno spettacolo che è molto legato al contenuto della salute, della divulgazione, del benessere, della lotta contro il caporalato, dell'etica, che possiamo, diciamo, agire tutti i giorni affinché il sistema si trasformi in qualcosa di più equo, di più giusto, ecco, a partire forse dall'azione più comune in assoluto che ha un cittadino, che è quella di andarsi a comprare roba da mangiare. Mm-hmm. Ecco. Che il suo spettacolo inizia con il dato oggettivo che il 70% degli acquisti alimentari in Italia viene fatto in un supermercato della grande distribuzione organizzata. Quindi c'è quel 30% che magari vai dal bengalese o dall'alimentari sotto casa, se ancora esistono, diciamo, nel quartiere in cui abiti, e però il 70% è fatto da loro, cioè da questi grandi gruppi che spesso internazionali e lavorano in un certo modo con i fornitori, così il 70%. Quindi tutti andiamo tutti mangiamo, questo è innegabile, il 70% di quello che compriamo per mangiare viene acquistato lì, quindi possiamo dire andiamo veramente quasi tutti al supermercato, tutti, dal nord al sud, come ti pare, da qualsiasi parte del mondo occidentale, c'è questa cosa qua.

e siamo partite in questa avventura insieme io, Marta e altre due artiste, Micaela Terino e Deborah Malis, per realizzare 4 edicole laiche sull'onda delle edicole religiose, rinascimentali, le Madonnelle Stradarole che troviamo in giro un po' per tutta Roma, che proteggevano i passanti. E noi abbiamo pensato appunto di invece intitolarle a donne che si sono battute nella loro vita contro la discriminazione di genere e non solo, e che sono state oscurate dalla storia, sia perché donne sia perché scomode, diciamo, nei loro posizionamenti. Ci racconti anche come si articolerà l'evento? Sabato 7 ci sarà questo incontro alle ore 15, l'appuntamento è a Piazza Brin, ci si può prenotare sul sito della Memoria delle Donne Stradarole. Ci sarà la sociologa urbana Irene Ranaldi dell'Associazione Ottavo Colle, che condurrà, diciamo, una passeggiata lungo le vie di Garbatella, sia per andare a scoprire queste 4 edicole che saranno installate in 4 aree verdi di Garbatella, e sia per ridare un po' luce a 2 storiche residenti del quartiere, lo stessa Garbata di cui c'è un bassorilievo e da cui sembra che il quartiere tragga il nome, e la fontana di Donna Carlotta. 4 edicole saranno installate a Parco Brin, l'edicola intitolata alla Sora Lella, una partigiana che ha fatto parte del settimo GAP e che grazie al suo lavoro nella Croce Rossa non soggiaceva al coprifuoco, quindi si è prestata come staffetta ideale e ha fatto tanto, insomma, per la resistenza, ma misteriosamente non è mai apparsa nella lapide in ricordo dei partigiani del quartiere, per esempio. La Sora Lella sarà interpretata da un'opera di Micaela Terino, mentre al Parco di Comodilla Marta Cavizzoni interpreterà Maria de Zayas, una scrittrice spagnola del 600, che fra le prime ha scritto e si è battuta contro la discriminazione di genere e l'emancipazione delle donne, e quindi chiaramente è stata ritenuta assai scomoda, nonostante fosse anche ritenuta valida come scrittrice al suo tempo. Poi si prosegue la camminata arrivando al Parco Cavallo Pazzo, dove Deborah Malis ha realizzato un'opera intitolata a Lise Meitner, che è una fisica austriaca, quella che in realtà ha dato per prima l'interpretazione della fissione nucleare. Peccato che, in quanto donna che doveva addirittura passare dalla porta di servizio, eccetera, non ha ricevuto lei il Nobel per la fissione nucleare, ma il suo collaboratore maschio. Dopodiché si arriva al Parco Caduti del Mare, dove io mostrerò la mia opera intitolata Hazel Scott, che è stata una pianista e cantante jazz afroamericana negli anni 30 e 40, famosissima negli Stati Uniti, addirittura più celebrata di Billie Holiday, la prima artista afroamericana, donna afroamericana, ad avere un suo programma radiofonico, e che però si è battuta fortissimamente contro le discriminazioni razziali, che ovviamente all'epoca erano abbastanza consistenti, e anche contro le discriminazioni razziali, in particolare verso il genere femminile. Quindi è finita nella lista nera del maccartismo ed è stata completamente cancellata dalla memoria. Un'altra cosa che ci tengo a dire è che dopo questa passeggiata queste edicole rimarranno permanentemente in queste aree verdi di Garbatella come proprio dono alla cittadinanza, proprio a protezione contro le discriminazioni, e per rendere ancora più aderente al territorio questa proposta, delle associazioni territoriali si sono prese carico ognuna di un'edicola, ossia hanno adottato queste edicole per anche curarle, proteggerle e farle sentire parte della cittadinanza. quindi quella della sorella Marco Brin è stata adottata dall'associazione She Wolves, delle pattinatrici di Garbatella, mentre quella di Maria De Zayas al Parco Comodilla è stata adottata dal Comitato Parco Giovannipoli, quella di Liz Meissner di Parco Cavallo Pazzo è stata adottata da Casetta Rossa e quella di Hazel Scott a Parco Caduti del Mare è stata adottata dal collettivo Una Volta per Tutte. A noi piacerebbe che questa idea potesse spargersi, diciamo, per Roma, per tutto il territorio e fare un po' di luce su tante, tante donne dimenticate. Ho visto che per l'evento c'è anche un blog, Donne Stradarole. Sì, il sito è www.donnestradarole.wixsite.com/website. Su Instagram siamo Donne Stradarole e su Facebook anche Donne Stradarole. Memorie di Donne Stradarole a Roma, Garbatella, sabato 7 dicembre 2019. Un saluto e un ringraziamento all'artista Cecilia Missa. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Grazie, viva il lupo, un abbraccio a voi. Con Andrea Brazzoduro, uno dei curatori del numero 49 della rivista Zapruder, Stati di Agitazione. Andrea, ben trovato. Ciao, grazie, ben trovato anche a te e a chi ci ascolta. E proprio a chi ci ascolta spieghiamo il progetto Zapruder, lo presentiamo? Fa parte di un progetto più vasto, che è quello di Storia in Movimento, che nasce dopo l'esperienza di Genova, Genova 2001. È una rivista, Zapruder, che esprime il desiderio di andare a riconsiderare la storia dei movimenti sociali e della conflittualità sociale in spazi di discussione autonomi e con una rivista che vive oramai dal 2003 senza finanziamenti, senza pubblicità, con un suo modo di funzionamento anche molto particolare. Siamo in vista dell'Assemblea Nazionale che c'è ogni anno di Storia e Movimento, in cui tutte le strutture e anche per esempio la redazione della rivista sono elette dall'Assemblea e tutti i numeri, e proprio in questa sede i temi dei numeri vengono discussi e proposti in questa sede, e anche questo Stati di Agitazione, Territori, Autogoverno, Confederalismo, questo numero 49 di Zapruder è stato proprio presentato e discusso in una di queste assemblee. Parliamo un po' del nuovo numero. È stata un po' una sfida ambiziosa e non so quanto capita, c'è stata una bella recensione sul manifesto a firma di Chiara Cruciati, però e parto un po' da qui con un detour, però l'immagine scelta dai grafici, ovviamente, che immagino non abbiano letto né il numero né forse la recensione di Chiara Cruciati, l'immagine che illustra la recensione è quella di un confronto tra polizia e studenti, immagino a Parigi nel maggio 68. Ora, il nostro intento era quello di ritornare sulla vicenda dei lunghi anni 70, della conflittualità sociale e politica di quegli anni, cercando di fare due cose. Una, intanto, come è anche abbastanza consueto per una rivista come Zapruder, quello di utilizzare la cronologia lunga del lungo 68, dei lunghi anni 60, quindi per dirla con una bella battuta dello storico Charles Meyer sulle pavé, le passé, quindi per capire gli anni 60 bisogna andare a frugare nella fine degli anni 50, quindi una cronologia ampia da metà 50, fine 70 e alle volte anche 80. Ma il punto più rilevante, più innovativo è forse l'altro asse che incrocia questo temporale, e che è quello geografico, cioè cerchiamo in questo numero di riconfigurare la geografia politica di questi movimenti che, come la foto che illustra la recensione del manifesto, sono forse stati troppo centrati sulle esperienze di Parigi, del maggio parigino e prima ancora di Parigi, esperti. Questi sono noi i due momenti considerati un po' come generativi del 68 globale. E era invece nostra intenzione riconfigurare, appunto, come ti dicevo, la geografia politica di questa vicenda, rimettendo al centro e al cuore di questa storia i movimenti di decolonizzazione, che sono estremamente importanti nel dare avvio a quel ciclo di conflittualità. Questa è un po' la tesi centrale di questo numero 49 di Zapruder. Com'è strutturata la rivista? Quanti articoli per quante pagine? La rivista fa 160 pagine, ci sono diverse rubriche. La parte iniziale, cioè prima il nostro editoriale, questo numero si intitola Archeologia del presente per un'altra geografia del lungo 68, segue all'editoriale dove facciamo un po' il punto di quelle che sono le categorie che vogliamo andare a sperimentare nei vari articoli e nelle varie rubriche. Segue una sezione che si chiama Zoom, dove ci sono i saggi più lunghi che affrontano dei temi specifici. In questo caso il primo di Nunes Seisas, 10-100.000 fronti, terzo mondismo, anticolonialismo ed etnonazionalismo nell'Europa occidentale. Poi un articolo di Marisa Foïs, un'Algeria immaginata, che indaga invece i network delle comunità amazigh, quindi berbere in esilio. E poi un pezzo di Vilar Diric, con un bellissimo titolo, secondo me, Facendo la nostra libertà passo a passo, che invece si interessa al caso del Kurdistan, che ovviamente non poteva mancare in un numero come questo. C'è un'ampia sezione di immagini a cui teniamo sempre molto, è uno degli elementi caratteristici e qualificanti della rivista Zapruder, perché le tendiamo a approcciare il materiale iconografico non come un semplice abbellimento dei testi scritti, ma invece consideriamo la rubrica immagini come un saggio fotografico, con piena attenzione, dandogli anche uno spazio considerevole. E in questo caso le belle immagini ci vengono dal nodo solidale e ci raccontano l'esperienza di Finca Alemania. Seguono poi altre sezioni, segue poi una sezione di schegge con contributi meno lunghi di quelli che sono ospitati invece negli Zoom, ma non per questo ovviamente meno significativi. Quindi andiamo dall'importanza del movimento neozapatista rispetto, andando a cercare anche le connessioni genealogiche con il 68 messicano in un pezzo di Tamarripa. Poi c'è un contributo di Chiara Pagano che torna sulla vicenda Machia, per noi abbastanza importante, quindi due articoli in questo numero, ma in questo caso la vicenda della militanza maghrebina e della questione nazionale è centrata sul caso della Libia. Poi c'è un pezzo molto interessante sulla vicenda palestinese, anche questa dico che non poteva mancare, ma mille altre, già abbiamo ricevuto delle reazioni piccate di qualcuno che sul conto Facebook di Zapruder ci dice ma manca questo, manca quello. Ovviamente le scelte poi sono anche contingenti, che si fanno nel momento di soprattutto di chiudere una rivista. Quando la si progetta si tenta, ovviamente i desideri sono sempre tanti, partono in diverse direzioni, poi quando si tratta di invece confrontarsi con il limite delle 160 pagine bisogna fare delle scelte. Questo pezzo però di Daniela Gallier sulla vicenda palestinese è molto interessante, perché dà un approccio un po' diverso a quello che forse sono sentieri più battuti che specie i lettori più impegnati e militanti hanno presenti, perché mette a fuoco il passaggio dalla figura del fedai a quella dello shahid, quindi alla figura del combattente alla figura del martire, inserendolo nel processo del mutamento di paradigmi culturali e politici che portano, no, dalla centralità di una figura forte, attiva, combattente, come è stato per il caso della resistenza, penso adesso al caso della resistenza al nazifascismo, quella invece Come funzionerà per le presentazioni della rivista? Speriamo ovviamente che saranno tante, abbiamo già un primo appuntamento a Bologna il venerdì prima dell'Assemblea Nazionale, quindi il 29 al VAG, ce ne saranno poi penso a breve altre anche a Roma, credo a Est, però le stiamo organizzando, quindi sia sul sito che sul Twitter, sul Facebook daremo appena possibile notizie. Credo che l'annuncio di quella di Bologna al VAG il 29 sia già uscita. Numero 49 della rivista quadrimestrale Zapruder, Stati di agitazione, territori, autogoverno, confederalismo, questo è il titolo per il nuovo numero. Un saluto e un ringraziamento ad Andrea Brazzoduro, uno dei curatori. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Ciao, grazie, un abbraccio anche a te, a tutti e tutte. Eccoci alla settimana teatrale romana e la parola passa al Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Grazie, no, so che siete arrivati alla settimana teatrale, ne stavate parlando, mi permetto di dire qualcosa anch'io, così visto che sono capitato di qua per puro caso ormai, visto che so più di 10 anni così ormai che facciamo questa cosa, quindi ne parlavo proprio poc'anzi, che è passato un bel po' di tempo, quindi la mia casualità è diventata poi un appuntamento settimanale ed eccoci di nuovo a parlare di teatro come tutte le sante settimane. E allora Federico, dove andiamo? Vediamo un po', cambiano i luoghi in realtà, chissà 10 anni fa in che teatri mandavamo le persone. Sicuramente all'orologio. All'orologio ci mandavamo, sì, sicuramente, li mandavamo al Valle anche. Anche al Valle. Però, oddio però, ecco, forse ne sono nati anche altri, sì. Non lo so, è cambiata molto la geografia, vedo che poi in qualche modo l'offerta riesce a mantenersi quel minimo possibile, è che sono cresciuti teatri che prima erano più piccoli, certo la mancanza di Valle Orologio si fa notevolmente sentire, ancora oggi. Allora, però dove andiamo? E allora andiamo, che ne so, per esempio a Brancaccino, Giancarlo Fares ci porta all'interno di un testo tra i più noti di Annibale Lucello, grande drammaturgo napoletano scomparso troppo presto, ed è l'Anna Cappelli con la protagonista Anna Mazzantini, ed è la storia di Anna, giovane donna che vive e lavora in una città lontana da casa. Anna vive tranquillamente insomma la sua vita, finché un incontro le stravolge la vita, la riporta all'interno del suo passato, dei propri fantasmi, e lì appunto scopriremo che tipo di pulsione sentimentale è venuta nella sua vita, l'incontro con un uomo tempo prima e come questo incontro si è concluso. Quindi Anna Cappelli, guarda, tra l'altro è uno dei testi, io lo ricordo con questa intenzione, uno dei testi che più viene portato ai provini dagli attori, perché vuol dire che poi gli attori si legano molto a certi meccanismi di quel testo, vuol dire che è scritto bene, altrimenti gli attori eviterebbero, insomma. Quindi dal 5 all'8 dicembre, Teatro Brancaccino per Anna Cappelli. Allora, abbiamo parlato di Claudio Morici un sacco di volte, e va bene, Claudio Morici se ne va con questo spettacolo nuovo, Il Grande Carrello, dal libro di Fabio Ciconte e Stefano Liberti, dedicato appunto agli acquisti alimentari, alla grande distribuzione organizzata, i supermercati, che hanno un ruolo ormai primario nella vita di ognuno di noi. Claudio Morici il 6 e 7 dicembre lo porta al Teatro Biblioteca Quarticciolo, e il libro è edito dalla Terza nel 2019, è un'indagine comica e seria allo stesso tempo per mettere a nudo la realtà che c'è dietro gli scaffali. Quindi Morici si fa anche l'autore di denuncia, che se glielo dicessi a lui starebbe a ridere fino alla settimana prossima. Però effettivamente, che ti devo dire, è un po' quello che capita. Quindi al Quarticciolo 6 e 7 dicembre per Il Grande Carrello di e con Claudio Morici. Al Teatro Studio Kairos viene uno spettacolo dal 6 all'8 dicembre che credo di aver visto in video, se non mi sbaglio, per qualcosa tempo fa, e che però non ho mai visto dal vivo, lo riscopro qua e lo trovo finalmente nelle programmazioni romane, è scritto, diretto e interpretato da Alessio DiCaprio, che non è DiCaprio ma DiCaprio, ed è la storia di Bucefalo il fuggitore, ossia un lavoro al 10° anno di repliche, ecco perché l'ho già visto, patrocinato dall'ANPI, sulla storia di Lazzaro, soprannominato Bucefalo, pugile che a 27 anni morì uno dei più grandi massacri della storia del mondo, ossia nella tragedia della Shoah, precisamente durante la retata del 16 ottobre 1943, dove a Roma dove più di 1000 ebrei furono deportati nei campi di concentramento e uccisi. Tutti gli avvenimenti appunto ruotano attorno agli anni della Seconda Guerra Mondiale e siamo dal 6 all'8 dicembre al Teatro Studio Keilos per Bucefalo, Il Pugilatore. Poi Off of Theater, 3-5 dicembre, per la prima volta lo scrittore Fulvio Abbate va a raccontare il teatro degli oggetti, questo mondo animato, le sue storie rese al pubblico attraverso le cose. Ecco, dare voce agli oggetti inanimati, anche il più insignificato souvenir, in qualche modo può raccontare una storia. Questo è quello che Fulvio Abbate porterà in scena dal 3-5 dicembre al teatro Off of Theater di Via Giulia. Poi andiamo anche al Teatro Argo questa settimana, perché arriva dal 5 all'8 dicembre la compagnia Controcanto Collettivo con la regia di Clara Sancricca, che dirige un bel po' di attori per questo 70 volte 7, lo spettacolo vincitore di Teatri del Sacro 2019, molto interessante, l'hanno visto altri colleghi, insomma, quindi sono molto contento, arrivi a Roma e la vita di due famiglie, i cui destini si sono incrociati in una sera, e quindi questo è il racconto del rimorso, della rabbia che divora, del dolore, perché evidentemente c'è stata una vicenda all'interno delle due famiglie che va affrontata. Il tema è quello del perdono, della possibilità delle relazioni umane, visto appunto che viviamo un'epoca dominata un po' dalla logica della vendetta. Questo è quello che vedremo al Teatro Argo Studio dal 5 all'8 dicembre con Controcanto Collettivo 70 volte 7. Anche il Palladium si segnala per questa settimana con qualcosa che forse insomma andiamo a vedere, ma non in tanti. Si tratta di Francesca Reggiani con il doc di origine controllata, il manuale di sopravvivenza al caos, che Francesca Reggiani porterà in scena dal 7 e l'8 dicembre, in questo lavoro di questa insomma importante attrice comica che ha affrontato tante volte anche la TV. Insomma, la conosciamo oramai. Abbiamo già parlato di Cobane Calling al Teatro Vittoria dal 5 fino al 15 dicembre. Questa performance particolare sarà in giro per l'Italia, ruota attorno al libro straordinario di Zero Calcare sull'avventura appunto di Cobane, e dal 5 al 15 dicembre arriverà sul palco del Teatro Vittoria di Roma questa rappresentazione che ci va a allestire la celebre graphic novel in uno spazio teatrale, quindi con un'ulteriore possibilità di discussione. La regia è firmata da Nicola Zavagli e appunto in scena ci sono molti attori e sono molto curioso di questo tipo di opportunità, quindi sicuramente cercheremo di non perderla con Teatro in Critica. Prima di farlo, nella piccola bottega degli errori, perché già per ringraziamo a mio carino Belia Martin, sul palco del Salon Umberto dal 3 dicembre fino al 22 costeranno questo lavoro con la regia di Piero Di Blasio, tutti basati appunto sul film di Roger Corman che conosciamo abbastanza bene, insomma, vedo una riscrittura abbastanza colorata e espressiva a giudicare dalle immagini che ne sto vedendo, quindi attenzione per la voglia di fare anche una scelta di allegria, di leggerezza, andremo assolutamente anche a vedere questa piccola bottega degli errori dal 3 dicembre al Teatro San Umberto. Mentre invece dal 4 dicembre la regia di Piero Maccarinelli per questa brillante commedia di Florian Zeller al Teatro Ambra Iovinelli, La Menzogna fino al 15 dicembre con Paolo Calabresi e Serena Autieri, e porteranno appunto questa commedia brillante, anche elegante, due coppie di amici che si confondono tra la menzogna e la verità, tra il reale e l'immaginario. Questo è il lavoro che andrà sul palco del Teatro Ambra Iovinelli fino al 15 di dicembre. E poi avevamo già parlato, ma non posso dimenticare nuovamente che torna a Roma l'Abisso di Davidenia. Stiamo parlando di uno spettacolo appena capitato al Premio Ubu e inevitabilmente un piccolo vero capolavoro del contemporaneo, perché è stata in narrazione, perché dal 3 al 15 dicembre al Teatro India, chi non l'avesse visto deve assolutamente andare, perché è la testimonianza più diretta che io abbia mai visto, dedicata appunto agli sbarchi di Lampedusa, che da tanti anni affondano le coste della nostra Europa fin troppo poco accogliente. E questo spettacolo necessario, urgente, è vero ed è effettivamente così, racconta questa Odissea, dal 3 al 15 dicembre, con in scena Giulio Parrucchieri anche alle musiche, e Davide Emia in grandissimo spolvero. Questo è uno spettacolo assolutamente da non perdere a tutti i costi. Io ti porto anche al Teatro Vascello, perché torna a Roma una compagnia fondamentale, importante, come Scimone Spravelli, che porta lo spettacolo 6, che replicherà dal 3 all'8 dicembre. Si tratta di un lavoro dedicato appunto ai 6 personaggi in cerca d'autore di Pirandello, una versione molto particolare appunto riscritta dai due artisti siciliani, in cui però la commedia insomma perde quell'alone di moralismo, invece riscopre dei rapporti concreti tra le persone, che un po' nelle versioni classiche viene abbandonata. Quindi assolutamente da non perdere anche dal 3 all'8 dicembre il lavoro di Simone Spravelli al Teatro Vascello. Questa è la settimana dove avremo anche l'opportunità di vedere le finali del premio tuttoteatro.com, Dante Castelletti e Renato Nicolini, due premi insomma all'interno di uno. 7 e 8 dicembre al Teatro India, le serate finali, con il debutto anche del lavoro che ho nella scorsa edizione del premio insieme agli altri giurati menzionato come spettacolo vincitore. In prima nazionale sarà presentato La Regina Celi di Carolina Balucani e Matteo Svolacchia, che racconta questa storia dedicata alle madri di giovani ragazzi morti in carcere. Questo, Federico, probabilmente è un lavoro che noi non possiamo perdere a tutti gli effetti, perché ci sarà bisogno forse anche di parlarne in radio, vista insomma l'entità dei nostri lavori e della nostra presenza nel palinsesto di Radio Onda Rossa. Quindi assolutamente da non perdere sarà l'8 dicembre il debutto di La Regina Celi, mentre invece la giuria vedrà da sabato 7 fino a domenica nel pomeriggio i lavori presentati appunto in una forma di studio, che andranno a misurarsi. E si tratta di La Vacca di Bitte Teatro, poi ci sarà la compagnia di Fano Cantici di Mauro, Manaciuma Teatro, Lisa Imprenditori di Sogni, un'altra compagnia di sabato, mentre invece Emiliano Brioschi e Cinzia Spanò saranno domenica dalle 15, seguiranno CTL Lab e Marco Lungo, finirà Sesti Maiotti con Luca 424, che appunto presenterà questo ultimo lavoro in Linz, e poi avremo il vincitore anche di quest'anno. Questo è quello che riguarda il Teatro India e quindi il premio Dante Castelletti. Ti segnalo come al Teatro Eliseo c'è un debutto notevole, il 3 dicembre fino al 15, dal romanzo di Erich Boll, L'onore perduto di Catalina Blum, la regia di Franco Però, e Pino Mazzotta, che è uno dei maggiori attori italiani, e forse pochi ancora lo sanno, forse qualcuno lo ricorderà nei panni di un comprimario del commissario Montalbano in TV, insieme a Elena Radonicic, presenteranno questo capolavoro del romanzo di Erich Boll, che racconta di questa segretaria irreprensibile che incontra a un ballo Ludwig Gutten, un piccolo criminale sospetto terrorista. Trascorre con lui la notte e l'indomani ne facilita la fuga, e da questo momento la vita di Katharina Blum cambierà completamente. Questo è quello che vedremo al Teatro Eliseo dal 3 al 15. E l'ultima cosa di cui ti parlo è dedicata al Teatro Argentina, perché dal 3 al 15 dicembre Bud Schulberg è l'autore e Alessandro Gaiman il regista. Si tratta di Fronte del Porto, che conosciamo molto più per l'interpretazione di Marlon Brando al cinema, per quel gran capolavoro di Elia Kazan nel 1954, ma appunto finalmente lo vediamo anche in teatro con la regia di Alessandro Gaiman, in molti attori che vedo qui, viene trasferito il lavoro nella Napoli di 40 anni fa e racconta la vita degli operai vittime della criminalità e di colui che per primo è riuscito ad alzare la testa. Questo è il lavoro, il protagonista appunto andrà a calarsi in questa difficile prova che lo porta a confronto con un grande attore come Marlon Brando, ma andremo a vedere i risultati dal 3 al 15 dicembre, Fronte del Porto al Teatro Argentina. E questo, Federico, è tutto. Un abbraccio Simone, a martedì prossimo. Ciao a tutti. Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.